questo libro è nato, è pensato per aziende e agenzie, ma in realtà nasce da un'esperienza molto diversa, che è una mia esperienza di attivismo, legata a un gruppo che si chiama Humans, che mi ha permesso di iniziare a parlare e trattare del tema della comunicazione accessibile. Poi Chiara ci racconterà anche cosa abbiamo fatto in Gardena, qui vicino, insomma. Penso che abbiano, come dire, in qualche modo colto dalla libreria Humans e fatto sviluppare tantissimi progetti, e poi Chiara ci parlerà anche di quali sono questi progetti e secondo me sono utili anche per le persone che frequentano la Q16. Allora, innanzitutto, di che cosa parla questo libro? Questo libro parla di comunicazione accessibile. La comunicazione accessibile non è la comunicazione inclusiva, perché a Reggio Emilia avete un problema con la parola decolonizzare, mi sembra di aver capito negli ultimi giorni, e io ne parlo questo all'inizio perché si usa il termine accessibile e non inclusivo. Inclusivo è un aggettivo coloniale. E io includo quando creo un sistema di valori e di regole e decido che qualcun altro o qualcun'altra può entrare in questo sistema. E quindi faccio qualcosa per cui l'altra persona può accedere a quello che io però ho già costruito. Guardate bene, non cambio le regole, non cambio l'architettura. Semplicemente do la possibilità a quella persona di essere inclusa. Faccio un esempio pratico. Da giugno 2025, per legge, gli istituti bancari, finanziari, tutte quelle che sono le comunicazioni ministeriali, i sistemi di trasporto sono obbligati sui siti e in tutti quelli che sono i display ad avere una comunicazione accessibile. Okay? Molti di questi enti hanno utilizzato l'omino vitruviano, cioè tu vai su un sito, in fondo a destra c'è un omino vitruviano, si clicca sopra, inizia a esserci un elenco infinito: sei ipovedente, sei epilettico, sei e tutte le. Allora, intanto se sono ipovedente devo leggere 10 opzioni, forse non faccio fatica a leggerle proprio. Ah, questa cosa, ok, è proprio inclusione. Cioè io lo faccio per legge, ti dico che tu puoi scegliere, ma prima di poter scegliere, forse faccio proprio fatica a farlo, perché non ho le capacità, le competenze, le abilità. Invece quando io faccio qualcosa di accessibile, è per tutti e per tutte. Quindi non cambio quelle che possono essere le regole, ok? Attraverso cui io costruisco il mondo, costruisco la comunicazione, costruisco il sistema, costruisco una città, costruisco la politica, eccetera, eccetera. Non tenendo conto quindi di qualcosa che io ampio, ma lo ricostruisco e lo ricostruisco. È una cosa completamente diversa. Questo significa decolonizzare la cultura. Ok? Per cui io non uso più un libro di testo a scuola a cui aggiungo il maschile e il femminile, come sta avvenendo adesso, perché poi magari aggiungo il maschile e il femminile, ma gli esempi delle frasi sono ancora la mamma cucina, il papà aggiusta la macchina. Ok? Tanto vale cambiare, no? La frase. Bene, quindi questo è la prima, come dire, è il primo concetto che sta dietro a questo libro: imparare a comprendere quelle che sono le differenze. Allora, io di studio sono una linguista, ma sono una linguista semiotica. Quindi quello che mi interessa sono i contenuti e le costruzioni che sono all'interno del contenuto. E penso anche che la lingua cambi. La lingua cambia nella società ed è importante che tutte quelle che sono le organizzazioni, siano aziende, siano agenzie di comunicazione, siano organizzazioni sociali, siano centri sociali, devono imparare a modificare la lingua facendo che cosa? Cercando di costruire quelle che sono delle culture che possono non essere accessibili. Vi faccio un esempio che come dire, è legato anche ai centri sociali. Quest'estate sono andata a vedere il concerto dei 99 Poste a Festina Mover, tanto che non li vedevo dal vivo, e una delle tante canzoni che hanno fatto è Stop the Train, che è del 2001, quindi andiamo indietro, non so qualcuno di voi se la ricorda. E, era una canzone che era nata per condannare la guerra. Questa stessa canzone, da circa 11 anni, viene utilizzata per condannare la TAV e viene riscritta, ricantata dai 99 Poste con questo cambio. Quindi il linguaggio, il senso cambia in base anche a come io utilizzo le parole. Un altro tipo di canzone che vi riporta è di Pancreas ed è Cannabis, ed è una canzone, non so se la ricordate, ma è una canzone in cui si parla di come la cannabis sativa sarebbe stata importante per il mercato economico, perché avrebbe permesso di produrre tantissimi prodotti, appunto, ma con meno impatto ambientale rispetto a quelli derivati dal petrolio. In questo caso, quindi, il linguaggio forma, cioè una canzone, ok, che viene ballata, che racconta una storia e che dà delle informazioni. Il terzo esempio è quello del linguaggio che cambia l'architettura e il sistema stesso. Conoscete Meek Mill? È una rapper, una delle pochissime rapper non uomo, non cisgender, che riesce a rappare in Italia. È una donna di Bologna, responsabile della comunicazione del Cassero, e lei è riuscita attraverso le sue canzoni a portare uno sguardo femminile e a decostruire il sessismo tipico delle canzoni rap, parlando appunto della paura del genere e di che cosa significa il genere nelle scuole. Questi tre esempi per dire che cosa? Che il linguaggio è importantissimo cambiare il linguaggio, come nel caso dei 99 Poste. È importante utilizzare il linguaggio per informare, ma il linguaggio ora come ora serve per decostruire, cioè per cambiare quelli che possono essere dei sistemi sessisti. Meg, la cantante del 99 Poste, diceva che lei negli anni 90 ha subito tantissimo sessismo all'interno dei centri sociali. Perché? Perché i centri sociali allora erano ancora intrisi di una cultura patriarcale e che aveva bisogno evidentemente di essere decostruita, ok? Perché penso che la comunicazione accessibile sia qualcosa che serve all'interno delle aziende? Io penso che parlare di comunicazione accessibile, in generale di stereotipi e discriminazioni, sia qualcosa che non possiamo fare solo nel tempo libero, solo nelle lotte, ma dobbiamo fare nel quotidiano. E per decostruire una cultura bisogna iniziare da luoghi in cui noi siamo sempre, quindi dal lavoro, dal mondo del lavoro. Io ho dovuto mettere insieme questa parte di attivismo con altre due parti, una era quella legata agli studi e l'altra quella del mio lavoro, che è il marketing. E quando fai marketing cioè racconti della gran fuffa fondamentalmente. E sei a contatto con tante parole che creano dei mondi completamente distorti. Le persone di marketing scrivono cose dette su un prodotto come l'olio per i capelli, scrivono cose del tipo sublimatore dei capelli, che significa qualcosa che non ti rende sublime, rende i tuoi capelli sublimi. Oppure scrivono cose del tipo questa crema serve per combattere le rughe, si sa, certi fare una guerra contro le rughe, e sei perso in questa guerra fino a quando sei bambina, no? Una cosa tremenda, creando in realtà una cultura dell'ageismo, cioè del fatto che per noi l'essere adulto, essere anziano, è una cosa da sconfiggere, che se tu non lo sconfiggi è perché non ti metti la crema antirughe, perché non fai attività fisica, perché non sei impegnato con la tua mente, non sei attivo, è colpa tua, non del fatto che tutti gli uomini e le donne invecchiano, no, è colpa tua, non ti chiede abbastanza. Se poi sei donna peggio ancora, perché gli uomini alla fine, anche se non due rughe, pare che siano più belli. E questi tre aspetti mi hanno fatto vedere che era necessario fare un lavoro di destrutturazione delle parole, partendo da che cosa? Non tanto dal maschile e dal femminile, che magari ne parliamo, ma dal tema delle differenze. Cosa sono le differenze e quali sono i privilegi? Ognuno di noi ha dei privilegi. E già il fatto che, come dire, qui stasera siamo tutte persone ci sono uomini e donne, ci sono, non ci sono giovanissimi, non ci sono persone magari troppo grandi, non ci sono persone di etnia differente, no? È un privilegio poter stare qui stasera, seduti, ad ascoltare, a informarsi, a fare delle domande, a criticare. Non tutti se lo possono permettere. Non tutti si possono permettere di scrivere un libro, perché scrivere un libro significa in Italia che lo fai spesso per tempo perso, nel tempo perso, lo fai senza che nessuno ti paghi, lo fai perché credi in quello che è, ma significa che hai tempo, denaro e un certo stile di vita. E questo è un privilegio. È un privilegio nelle nostre vite poter lavorare e non dover pensare ai genitori anziani o ai figli, e quindi poter lavorare e produrre di più e quindi essere più efficienti sul lavoro. È un privilegio essere uomini nella nostra società, ma anche è un privilegio, cioè è meglio essere nella nostra società gay piuttosto che lesbica, piuttosto che transgender, perché c'è una cosiddetta ruota del potere, e in questa ruota del potere ci sono il potere al centro, e più tu sei vicino al centro più puoi decidere quello che vale la pena da quello che non vale la pena, puoi includere o escludere. E io ho capito una cosa, che questa ruota del potere si scardina innanzitutto con le parole, cioè mettendo in evidenza quelle che sono le differenze e i privilegi. Non tanto perché se io dico sono una donna bianca che ha studiato, che quando ha studiato si è potuta permettere di studiare senza dover lavorare, che arriva a fine mese senza dover contare i centesimi per mangiare, non è qualcosa che è legato al mio talento, è qualcosa che ho, ok? Ma se io ho questa consapevolezza, posso fare in modo che la consapevolezza del mio privilegio scardini quello che non è un privilegio per gli altri, per fare in modo che anche gli altri possano mettere, come dire, il loro talento e non il privilegio o la mancanza di privilegio. E quindi da qui è nato questo testo, che poi è una guida vera e propria, quindi è molto, anche molto pratico, però la parte iniziale è proprio questa, del lavorare con i gruppi nelle aziende su il vedere quali sono i nostri privilegi e le nostre differenze. Io di lavoro faccio anche questo, faccio la formatrice per le aziende che sono certificate, che hanno la certificazione di genere, e lavoro facendo proprio anche dei giochi per far evidenziare alle persone quali sono questi privilegi. Sono anche delle bellissime, degli episodi abbastanza quest'anno. E però per rispondere alla domanda, perché ho intervistato il collettivo del laboratorio Q16, perché secondo me quando si tratta di parole, si tratta di società, non possiamo dire di poter parlare in nome della società se non intervistiamo, se non ci confrontiamo con i diversi modi di vedere il mondo. Quindi per me era interessante e importante parlare intanto con una generazione più giovane, ma anche con una generazione che lavora sul collettivo. Infatti è l'unica intervista, quella al collettivo, che la cui risposta è stata sviluppata in modo comunitario, nel senso che non c'è stata una persona. Io mi sono interfacciata con Sara, ma in realtà Sara ha riportato la voce di Matisse e di altre persone del collettivo. E questo per me era una forza importante per le aziende, perché una cosa che manca nelle aziende, nella comunicazione, nei giornali anche, è il fatto che si è perso, secondo me, nel tempo, di avere un linguaggio collettivo, perché il linguaggio collettivo è anche un linguaggio che mette più in evidenza quelli che sono i privilegi e le diversità. E dalla risposta che è stata data appunto dal collettivo di AQ16 emerge questo, cioè il fatto di concordare quelle che sono le parole, di concordare quelle che sono le strutture. Nella nostra società, dove c'è fretta, c'è urgenza, ognuno parla in modo individuale e l'individualità, non, senza confronto, non può che evidenziare le differenze, perché non si è in grado di confrontarsi. E quindi per quello, per me, le altre interviste sono quasi tutte di aziende, anche aziende grandi come Sky, perché ho lavorato con Sky, con il customer care, quindi ho lavorato con circa 600 persone del customer care di Cagliari su queste tematiche, e Sky fa tanto sul tema della differenza di genere, ad esempio. Però in una logica top down, quindi i vertici decidono che il tema di genere è un tema che è importante e quindi viene applicato. A me interessava invece il discorso appunto del confronto e della costruzione collettiva del linguaggio, perché poi in tutti i nostri modi, in tutti i nostri canali di comunicazione, in realtà questa cosa non c'è. Sono molto contenta che ci sia Davide, con cui mi confronto, che è direttore di Reggio Online, mi confronto tantissimo sul tema della comunicazione di genere, perché penso che ad esempio i giornali siano uno dei poteri della nostra società dove questo è stato completamente cancellato, il confronto, il costruire delle indagini comuni, un linguaggio comune. Sì, ci sono i corsi di aggiornamento, ma non c'è il tempo di confrontarsi, no? con i colleghi, di magari migliorarsi. Infatti faccio un piccolo appunto, Davide gliel'ho già fatto in realtà, ma lo faccio a tutti, perché mentre tornavo in treno, poi è molto facile quando hai un po' un occhio, oggi ad esempio su Reggio Online c'era questo titolo, perché stasera al Graffio c'è Marwa, che è stata invitata per appunto per la parola decolonizzare, e quindi c'era il titolo, era una cosa del tipo, se non lo ricordo a memoria, ma potrei prenderlo, Marwa Mahmoud ospite del Graffio per parlare del tema della decolonizzazione nelle scuole, punto, e si parlerà anche dei problemi della stazione, andando a creare che cosa? Cioè un'associazione tra i problemi della stazione, quindi migranti, quartiere, eccetera, eccetera, con quello che ha detto Marwa sulla scuola, che non c'entra assolutamente niente, perché al limite si può dire, e si parlerà anche dell'educazione sessuale nelle scuole. No, sarebbe stato coerente. Ma così tu stai creando un problema, no? E lo stai mettendo insieme. I motivi sono tanti, non c'è tempo, giornalisti sotto, insomma, sappiamo, poi insomma, Davide cioè, giustificherai il titolo. Non l'ho fatto, ecco, questa è una bellissima. Ah, l'hai fatto tu? Ah, ok, no, va bene, ho capito, non l'ho fatto io. No, è interessante che quella che è molto della comunicazione, cioè se parte ma arriva in un punto diverso da quello che tu immagini come a partire, perché ci vediamo più a volte, non esatto. Non capito male che dicevo. Quindi io poi se lei parla una coscienza virtuale, abbiamo una corrispondenza. Quella era semplicemente a monte una conseguenzialità della scaletta, prima parte, seconda parte, due temi non correlati, però il senso dopo. Però è, se qualcuno leggendo, ma anch'io poi riflettendo si dico, cavolo, c'è in effetti quella tranquilla. Allora, capita, è capitato. Uno ti dice io non intendevo quello, però poi conta quello che arriva. Quindi il problema è che il senso lo fai, lo costruisci mettendo insieme tutti gli, cioè, tutti gli aspetti, no? È come quando nel, ad esempio si fanno le comunicazioni sulla violenza di genere, spesso, no? Magari uno ha il titolo anche tutto corretto eccetera, poi nella foto mette la ragazza anche carina con stile punk, con il trucco un po' colato, la mano davanti così, tu stai dicendo cioè, che è comunque un'immagine sessualizzata. Sì, è perché esatto, anche perché nella violenza di genere, cioè molto spesso non è che la donna è come dire vittima in quel senso, è un po' diverso, cioè proprio crei un pacchetto, nonostante cioè, voi facciate corsi di formazione, cioè nel senso no. Tu fai lo specchietto, una donna in macchina, a un certo punto sente un rumore, si ferma, scende, arrivano due, ma tu mi hai portato lo specchietto, questa NASA la truffa, e comincia a filmare i due truffatori. Questi reagiscono menandola, no? Però vengono identificati proprio grazie a quel video. Nello scrivere quell'articolo abbiamo scritto i carabinieri arrivano a identificare due tramite il video e per introdurre l'elemento sono stati denunciati, abbiamo scritto all'arresto hanno pensato i carabinieri, cioè la signora per filmati e qualcuno ha scritto l'ampicchiato. Ma quell'arresto sembra che i carabinieri abbiano completato l'opera, se l'avevano data anche loro. E anche lì, poi quante volte devo andare a indietro di fare la sua carta? No, perché lo avete stampato. Certo. Però la speranza Ma tanto stiamo in po', cioè è bello anche il confronto, perché poi dopo dico una cosa sul test. Perché qualcuno si mette che può fare 2+2 o a dirti perché hai fatto 2+2=6 e messo insieme, come dice tu adesso, due cose, e quindi questo confronto è molto arricchente, cioè ti porta a riflettere a volte su il senso degli angeli o fare tutte le bambine come a volte diciamo. Sì, e secondo me sul territorio sono importanti gli spazi sociali, perché negli spazi sociali già solo come proprio organizzazione, no? Il fatto di decidere in modo collettivo e scrivere in modo collettivo è un esercizio molto pesante, perché cioè, implica tanta contrattazione, ma quello che esce come senso è qualcosa di condiviso, che è una cosa che nelle aziende non c'è, e questo non esserci significa accentuare ulteriormente quelle che possono essere delle differenze e quindi anche delle discriminazioni. E tanto che sei qua, faccio un po' tutto io, poi dopo te lo ridò. No, volevo chiedere a Chiara appunto se ci parlava del percorso che abbiamo fatto in Gardegna, proprio sul senso di come dire, di pensiero collettivo sulla comunicazione accessibile. Grazie Elena, grazie Alberto, e ringrazio anche voi per essere qui in questo momento, come diceva prima anche Elena, un momento in cui abbiamo anche un po' il privilegio di ascoltarci e confrontarci un po' insieme. Allora, io faccio parte del circolo Arci Gardegna, qua vicino, e da un anno abbiamo aperto una piccola libreria transfemminista, detta microbiblioteca transfemminista appunto. L'abbiamo aperta un po' perché come gruppo, diciamo, di volontari sentivamo l'esigenza di riprenderci uno spazio. Quindi il tema già dello spazio ci ha portato a immaginare un luogo corale, condiviso, e un piccolo spazio dove prima c'erano delle macchinette del gioco d'azzardo, quindi avendole poi tolte abbiamo recuperato quel piccolo, diciamo, stanzino facendoci una libreria. E l'idea è nata grazie anche al gruppo Humans, perché ci avevano un po' detto il loro desiderio di donarci dei libri. Allora, con i libri abbiamo voluto costruirci uno spazio, diciamo, piccolo ma con grandi obiettivi, grandi idee di condivisione. E in questo spazio, che è attivo da un anno circa, a parte avere un servizio di prestito gratuito, volevamo creare un luogo sicuro per il nostro quartiere. Volevamo un po' creare anche uno spazio transfemminista intersezionale. Dopo prendo, diciamo, un minuto un po' per dire un po' qual era un po' l'idea. Come spazio noi intendiamo uno spazio proprio fisicamente dentro un circolo che ha diverse vite, diverse attività, diversi, diciamo, protagonisti, e che si interfaccia un po' con anche diverse generazioni. E grazie un po' anche al supporto che ci ha dato Elena, ci hanno dato un po' i volontari di Humans, volevamo partire anche dalla nostra comunicazione. Quindi abbiamo fatto quest'anno un corso sulla comunicazione accessibile, l'abbiamo chiamato Parole che contano, credo. No? So se è nato prima il corso, avevi già in mente questo, però immagino, vero? Esatto. No, tre incontri aperti un po' a tutti, quindi libero accesso, incontri anche staccati l'uno dall'altro, quindi è stato un percorso che si poteva seguire, diciamo, intero, flusso intero, oppure anche partecipando a dei singoli episodi. Abbiamo un po' discusso sul tema delle differenze, delle discriminazioni, degli stereotipi, facendo anche un confronto concreto di quelle che erano le nostre realtà, i nostri osservatori. Ecco. È stato molto costruttivo, e da questo percorso, che ci ha dato un po' più di consapevolezza, abbiamo iniziato a usare un linguaggio che potesse essere, diciamo, un po' più rappresentativo per tutto quello che voleva fare la nostra libreria. E da qui sono nate anche, dalle parole ai fatti, diciamo, sono nate anche diverse iniziative, e volevo parlarvi appunto un po' anche di queste, perché magari potremmo, diciamo, anche pensare insieme alle prossime, oppure alcune possono risultarvi utili. E da questo mese, il martedì o il mercoledì, ma adesso ve lo dico subito perché la memoria mi sta abbandonando, da questo mese abbiamo una psicologa psicoterapeuta che il mercoledì, tutti i mercoledì ad accesso libero dalle 18 alle 8 e un quarto apre la microbiblioteca per ricevere, appunto, fa un punto d'ascolto psicologico gratuito. Quindi questo tutti i mercoledì, magari vi possiamo dare una locandina, qualcosa da avere anche qui. E sono partiti alcuni cicli di incontri di filosofia comunitaria, quindi Philosophy for Community, e abbiamo un book club. Comunque, tutte le cose che facciamo vogliamo sapere anche come comunicarle, quindi abbiamo preso spunto anche dal corso, diciamo, appena fatto, comunque dalla collaborazione che abbiamo con Elena, ma anche dai talenti delle nostre soci e dei nostri soci. Quindi questo è un po' il nostro focus, con le nostre risorse e migliorando, diciamo, insieme anche costruire quello che è il programma del futuro un po' e presente della nostra biblioteca, ma sul, diciamo, sulla parte del crederci nel percorso del transfemminismo intersezionale abbiamo preso poi una presa di posizione proprio come circolo, dando identità a quello che può essere uno tra i tanti circoli arci della città, ma volendo essere anche un punto di riferimento per quello che potevano essere, diciamo, tutte le lotte per le discriminazioni che comprendono più di un fattore. Quindi su questo noi volevamo dare un senso anche alla nostra partecipazione. Non abbiamo delle altre attività, diciamo, specifiche, ma siamo aperti tendenzialmente dal giovedì alla domenica con, diciamo, eventi, volontari e altro, ma vogliamo essere anche noi, diciamo, vogliamo imparare a comunicare, a comportarci, ecco, anche come collettività. Quindi da questo spazio, da dei libri, da delle parole possono nascere, diciamo, azioni, fatti, ma comunque essere anche un presidio per la nostra comunità. E quindi grazie anche a voi, perché, diciamo, su questo mi piacerebbe che potremmo, diciamo, pensare di collaborare insieme. Grazie anche a Elena, perché con il suo tanto girare, ecco, fa comunque cambiare le cose, quindi grazie. Sì, perché per me le parole che contano, appunto, non è solo il linguaggio, ma è proprio la mettere in azione, no? Ad esempio un incontro bellissimo che era stato fatto forse a maggio, giugno, quello con il meccanico, il corso per le donne di... lo dovete fare, ecco. Se l'idea ad esempio era una delle cose che le donne non sanno fare è cambiare le gomme, e allora vogliono fare il corso per insegnare alle donne a cambiare, sì, che in realtà che gli uomini ormai non ci sono più. Esatto. Sì, però ecco, secondo me quello che conta è questo, no? È creare un cambiamento. Ridò magari altre domande. Intanto grazie Chiara, grazie Elena, e tra l'altro sì, posso confermare che è anche un posto carinissimo, la Mlica Biblioteca Transfemminista. E io mi chiedevo, magari Elena, rispetto un po' al, secondo me sono due temi che secondo me sono molto particolarmente interessanti anche per quello che facciamo qui. Da un lato il discorso che magari fai su l'utilizzo della schwa o dell'asterisco e o del femminile maschile o del femminile sovraesteso o del alternare femminile maschile, parto da un ragionamento che adesso recentemente, come ADL Cobas, stiamo lavorando su una ricerca sul lavoro under 35, quindi lavorando comunque già automaticamente un target anagrafico definito alla base. Abbiamo deciso di usare voi asterischi, voi schwa, voi un linguaggio molto inclusivo. Effettivamente però a volte sentiamo un po' la pesantezza, perché poi un conto è scrivere una frase, è un conto è scrivere un comunicato intero, tutto col femminile o il maschile, tutto con lo schwa, tutto con... e poi magari l'asterisco, sì, però lavoratrice, lavoratore non funziona con l'asterisco, e quindi lo devi fare insomma, è chiaro che poi a volte si avverte anche una pesantezza, ci si confronta un po' con una lingua che è alla radice, insomma, non ti facilita in questo senso a volte, e a volte magari siamo noi che semplicemente non la sappiamo maneggiare, e per questi scopi, non lo so, penso io in spagnolo hanno trovato ci mettono l'altra vocale, no? Come da noi il tutto, però da noi il tutto io non credo che abbia preso piede, almeno non ho quasi mai sentito. E quindi niente, un po', sì, secondo te come, quali sono un po' le cose che vedi anche un po' relative a spazi che magari possono essere, magari si rivolgono a volte a cose molto, a un pubblico più già sensibile, che so, al tema transfemminista, altre volte magari come può essere una lista civica che va alle elezioni, come dicevi, che sì, si vuole rivolgere a un certo pubblico, ma poi lo vuole allargare molto di più rispetto a quando magari si fa un comunicato, che ne so, per esempio la chiamata per la città transfemminista, altro progetto che sta andando avanti, che magari va a prendere, è chiaro, dei settori più o meno ampi, no, per tipologia di cose. Allora, secondo me dipende molto dal contesto in cui si è, nel senso che se io vado in un'azienda e inizio a parlare con Tutu o la sua o altri, l'asterisco non lo parli, che chiaramente o scrivi con l'asterisco, è fuori contesto, perché la reazione può essere quella di fastidio, oltre al fatto che tutti questi queste scelte possono essere escludenti per persone che sono ipovedenti o che hanno difficoltà nella lettura o cose di questo tipo. Oltre al fatto che sono respingenti anche perché ti pongono non in un'ottica di magari confronto, ma di insegnamento, o comunque di non comprensione delle persone che hai davanti. Però noi abbiamo una lingua che è bellissima e che in realtà puoi utilizzare anche senza per forza dover usare il femminile e il maschile, anziché dire cittadini e cittadine, usi cittadinanza. Ed è un esercizio che vale. Io allora, in questo libro, poi sicuramente adesso uno lo apre e trova l'errore, ma ho provato a non usare nessun segno, ma a utilizzare tutti i termini che potessero comprendere il maschile e il femminile e il neutro, diciamo. Quindi il contesto è importante, cioè siamo al centro sociale, io potrei benissimo parlare col Tutu, vado all'Arcigay, ok, sono tranquilla, sono serena, capito? Vado in un'azienda, preferisco non farlo. Sono su un giornale, anche no, cioè a meno che non sono un giornale o una casa editrice come magari FQ, che ha scelto di utilizzare questi strumenti, perché non è quello il tema. Cioè, sono un partito politico, il mio problema non è usare la sua. Il problema è, voglio parlare alle donne migranti, magari basta fare le riunioni alle 9 di sera, le faccio la mattina le riunioni, quando le donne migranti possono partecipare. Poi uso il maschile, uso il femminile, va bene, dopo ne posso anche parlare. Cioè, sempre per ritornare al fatto che noi dobbiamo tornare a quello che è il contenuto della lingua e al contenuto dei dati. Nel libro c'è tutto un capitolo dedicato ad esempio ai dati. Nelle nostre comunicazioni quello che spesso manca è proprio questo, manca il dato e manca il racconto del dato. Questo è più importante forse della Shoah. Poi possiamo anche usare quello, e ripeto, la lingua è un esercizio continuo e si può parlare in modo comprensivo, però se io per esempio non ho i dati faccio molta fatica. Io ad esempio sto lottando a Reggio perché mi serve per una ricerca che sto facendo, avere i dati disaggregati delle imprese femminili di donne di origine non italiana, e se queste donne sono effettivamente poi retribuite. Questo in centro storico mi interessa. Cioè, non c'è verso di avere queste informazioni, perché non esistono i dati disaggregati. Allora, come si possono fare delle politiche corrette se io non ho il dato disaggregato? Se mi viene detto, altro grosso tema sulla differenza di genere, che per esempio in Italia solo 4 donne su 10 hanno un conto bancario personale, ma che è una cosa molto grave, perché se tu non hai un conto bancario personale significa che, uno, se subisci violenza di genere in famiglia come fai ad andartene? Cioè, non hai soldi, non sei indipendente, e poi tutta un'altra serie di cose. Allora dico, se è vero che da quello che si dice, ma appunto non ci sono i dati, la maggior parte delle nuove imprese di persone di origine straniera sono di donne, Ci sono poi conti correnti? No. Allora, chi è che ha il potere economico? Sono prestanome, non sono prestanome? E io questa cosa qua, cioè la sto cercando, Camera di Commercio, CNA, non si trovano i dati. È da lì che poi si può creare con le aziende, con la società, con il territorio, un linguaggio diverso, una cultura diversa. Cioè sono quelle le parole che contano, più che il femminile e maschile, che per l'amor del cielo è importante anche quello, ma su quello secondo me le persone si stanno anche abituando, perché poi anche è una questione di atteggiamento, basta anche alle volte semplicemente iniziare le frasi col femminile e il maschile e poi dopo si usa il maschile sovraesteso, va bene, anche perché devo dire che io stessa faccio molto fatica a usare altri, cioè sono di un'altra generazione, ho studiato, cioè, ho sempre parlato col maschile sovraesteso e anch'io faccio fatica pur credendo nell'importanza insomma della cosa, quindi bisogna un po' interrogarsi su quello, cioè sulla struttura, su cosa stiamo facendo, su perché lo stiamo facendo e poi decidere come parlare. Vera Gheno ad esempio consiglia di usare il linguaggio ampio, quello che dicevo io, no? Cioè usare termini che possano includere, a meno che uno non sia all'interno di un certo sistema in cui ti riconosci, perché stai dando anche, stai comunicando anche un contenuto politico. Per esempio quel telo manifesto, no? dove si usa appunto la schwa, ha senso qui, perché comporta una presa di posizione, no, transfemminista, e quindi stai dicendo anche altro. Su un giornale, ripeto, poi c'è la persona che non riesce a leggerlo, ci sono i sistemi di lettura che non riescono a leggerlo, e quindi sarebbe difficile. Poi probabilmente fra 50 anni, magari fra 50 anni viene utilizzato e va bene così, cioè non, la lingua cambierà sempre. Cambiano i termini, cambiano, quindi non è. Però il fatto che quei segni possano escludere, escludono tante altre persone, tantissime altre persone. Chi ha ad esempio delle problematiche di DSA e non li legge, fatica, quindi cioè in un qualche modo discrimini. Sì. No, era una cosa che secondo me era, può essere interessante, visto che l'hai menzionata, ma e che va un po' di pari passo forse anche come appunto, cioè, la lingua è cambiata, nel senso che abbiamo detto la lingua è una cosa che cambia, una cosa che vive, è una cosa che viene detta anche tra l'altro nell'intervento proprio degli spazi sociali che citano come esempio i dialetti, in cui dicono i dialetti cambiano in maniera molto più fluida perché la lingua, insomma, ha tutto, la lingua all'interno dello Stato-Nazione ha un processo anche di cristallizzazione in cui, insomma, vabbè, si va poi a formarla e a quasi a volerla bloccare, ma la lingua per sua natura in realtà è proprio il contrario, no? Evolve, cambia. E se sia la lingua a cambiare la cultura o cultura a cambiare la lingua, probabilmente un po', forse è una domanda anche che veramente diventa quasi il sesso degli angeli o se è nata prima l'uovo o la gallina, però sicuramente l'uno influenza l'altro. Allora, rispetto a questo, secondo te il fatto che negli spazi sociali molto più e forse anche molto prima che altrove, se immaginiamo che fra 50 anni la Shoah ci sarà ovunque, e si è cominciato a usare questa tipologia di lessico e a quindi poi portarla anche in altri, sempre più in altre storie della società. Come si lega con quello che può essere stato invece il processo, perché appunto, come si dice, poi la teoria della lingua deve poi essere accompagnata da una pratica, se no diventa un rainbow washing, no? O un pink washing, o un transfeminism washing, non so, così, rispetto al progresso, al cambiamento che c'è stato negli spazi sociali, rispetto al patriarcato che citavi prima, per esempio la cantante del 99 Post, che adesso mi sfugge il nome, Meg, e che appunto anch'io mi ricordo avevo letto qualcosa del genere, tra l'altro, che diceva, e poi lei, sovrapponendo anche il tema dell'etnia e tante cose, insomma, ha subito un enorme patriarcato, no? Ecco, come vedi, il fatto che si è adattato questo tipo di linguaggio con proprio in dei posti che erano intrisi, no? Per molti aspetti di una cultura patriarcale, sono stati poi quelli che hanno portato questo tipo di linguaggio rispetto anche alla cultura, al cambiamento che c'è stato, fino a poi arrivare appunto al transfemminismo, e alla Shoah, che supera il binarismo di genere, perché in un certo senso il maschile e il femminile non è traducibile nella Shoah, no? E con tutti i limiti poi che ci dicevi. Allora, intanto penso che questi segni, per quanto riguarda tutti quelli che sono gli spazi politici, sono fondamentali, perché di fatto sono segni che in realtà hanno lo scopo di mettere in evidenza delle storie che non sono mai state raccontate. Quindi il fatto di utilizzare la Shoah piuttosto che l'asterisco, quello che il gruppo decide, o la U, perché a un certo punto c'era appunto il tutt'uno, significa dire: guarda, state attenti, perché non c'è solo il maschile e il femminile, c'è anche il non binario. E questo significa mettere, diciamo, sul piatto una lotta politica, ok? Che secondo me, non è compito, ad esempio, di un giornale, perché il giornale, a meno che non sia un giornale ovviamente politico, non ha quella funzione nella società, mentre gli spazi sociali hanno questa funzione, gli spazi politici hanno questa funzione. Poi che all'interno dei movimenti politici questa cosa non sempre viene fatta, sì. Che all'interno dei sindacati non sempre viene fatta, purtroppo sì, cioè, secondo me è così. Vi leggo un pezzo che secondo me dice ancora meglio di quello che posso dire io, e che è interessante, perché appunto è la risposta, no, dell'intervista. Io, la domanda era: qual è il ruolo del linguaggio nella costruzione di una politica più equa e rappresentativa? C'è tutta un'introduzione. Poi, per noi l'inclusività è una tendenza, una sfida, perché in un'organizzazione politica viene sempre prima il collettivo dell'individuo, ma l'inclusività ti fa domandare come tenere insieme queste due dimensioni, come rendere il personale parte della lotta politica. Il linguaggio accessibile può essere un mezzo, perché intanto serve per rendere visibile determinate condizioni di persone che spesso sono invisibilizzate. Pensiamo a una persona transgender che vuole abortire. Non solo è un racconto che non ci arriva mai, quasi inimmaginabile o inspiegabile per la maggior parte delle persone, ma sono assenti proprio i mezzi per conoscere e sostenere questa condizione più particolare di altre nel mondo della sanità. Ecco, secondo me tutti quelli che sono gli spazi sociali e il senso anche, ad esempio, delle biblioteche Humans è questo, cioè fare in modo che le storie possano circolare, e se fai circolare delle storie rendi reale una situazione, ed è per questo che certe realtà dovrebbero sforzarsi, ma non tanto per la lingua, per raccontare le storie che ci sono dietro a quella Shoah, quell'asterisco, quello che uno decide di usare, insomma. Grazie intanto. E intanto facciamo un attimo un check se ci sono domande, interventi dal pubblico. Faccio formazione in una grande ceramica di Sassuolo e sono circa 1200 uomini che sono ai forni, si turnano. Ci sono, ovviamente le donne sono tutte in amministrazione tendenzialmente o sono dedicate alle pulizie. Quindi chiaramente queste persone che un po' sono contente di fare la formazione perché non sono ai fuochi, che insomma, meglio stare ovviamente. Poi ci trattano benissimo perché ci fanno il caffè, ci fanno tutto, fantastico. E, un po' però insomma non so quanto magari gli possa interessare quello che devono fare. E vabbè, comunque facciamo questi corsi sul cos'è lo stereotipo, il pregiudizio, facciamo tanti giochi e la cosa interessante è che devo dire c'è molta sensibilità sul tema, no, perché le donne, cioè molta informazione, le donne hanno degli stipendi minori perché poi le donne sono le loro mogli, le loro compagne, le loro figlie, lo sanno che c'è differenza. Poi però quando io faccio fare dei giochi che vengono fatti per far uscire appunto, no, quelli che sono un po' di stereotipi o di comportamenti, allora c'è quello che magari dice: ah, io quando arrivo al lavoro abbraccio sempre la Maria, che è la signora che fa le pulizie nello spogliatoio. Io: ah, ma dai, siete amici? No, non siamo amici, ma io le donne le rispetto, le voglio bene. Ah, ok, ma gliel'hai chiesto se la potevi abbracciare? Oh, ma lei non dice mica niente. Allora il collega che gli dice: sì, cosa vuoi che ti dica? Cioè, nel senso, no, non ti dice niente perché magari cioè, subisce sta cosa, no? Ah, non ci avevo mai pensato. Oppure altri che ti fanno, non so, tutto il discorso sulla differenza uomo-donna, va tutto bene. Poi, siccome io gli faccio fare dei giochi di scrittura creativa, di storytelling così, viene fuori che a un certo punto c'era sto Marco, però Marco perché mi chiamano professoressa. Professoressa, sa, Marco un po' così. Un po' così come? No, tutti a ridere, no? E io ho già capito dove volevano andare. E io, in che senso? Cioè, me lo puoi descrivere? Ma sì, dai, su, ha capito, prof, dai, è un po' così. E io, no, un po' così non capisco cosa vuol dire. Beh, insomma, non è che proprio... Ma sì, insomma, gli piacciono gli uomini. Ho detto, a parte che c'è una parola, gay, omosessuale, cioè, uno. Gli dico, vabbè, ma ve l'ha detto lui? No. L'avete visto con un compagno, col marito? No. Quindi da che cosa l'avete dedotta questa cosa? Perché noi il lunedì negli spogliatoi, ecco, io non lo so cosa fate negli spogliatoi. Raccontiamo che abbiamo scopato il sabato. Ok, ho detto, quindi lui non lo fa. Gli ho detto, scusate, ma cioè, questo vi dice che lui è gay o che è un uomo che magari non vuole raccontare con chi è stato il sabato? Ah no, ma è gay. Gli ho detto, ma guardate, cioè, ora magari semplicemente non vuole raccontare i fatti suoi a voi, magari rispetto della persona con cui sta. Cioè, queste cose a me capitano facendo queste formazioni. Cioè, è intrisa il linguaggio di un sessismo, di una violenza che non è, cioè, tutti sanno che gli stipendi sono diversi, che le donne avrebbero bisogno, le donne poi, che le famiglie avrebbero bisogno di più aiuti nel gestire i figli perché non si sa come fare, però poi i racconti sono questi. Quindi io a queste persone uso una schwa. Ma chi se ne frega? Uso il femminile sovraesteso, che già sovraesteso, cioè io devo spiegare, cioè non è semplice, poi mi prendono per una che non sa parlare italiano, quindi poi dopo non ho neanche, cioè devo cambiare completamente, uso un sacco di parolacce, ripeto le parole che usano loro, perché loro mi parlano in un certo modo che è anche violento. Ma se io poi ripeto: ah sì, ti sei scopato una, quando lo dico io, che comunque vedete come mi vedo, cioè nel senso, non è che sono proprio, cioè, stanno zitti, dopo cambiano il linguaggio perché non se l'aspettano. Ma non posso usare la schwa, cioè, e poi non mi interessa usare la schwa, ma mi interessa confrontarmi. È proprio una cosa diversa. È per quello che secondo me questi temi li dobbiamo portare nel nostro mondo, cioè nel nostro posto di lavoro, e nel nostro posto di lavoro dobbiamo confrontarci su quello che noi scriviamo, diciamo, e farlo diventare un linguaggio collettivo, ma non solo se siamo delle organizzazioni politiche, anche se siamo aziende, perché eviteremmo delle robe che sono veramente, cioè, poco reali se riflettessimo su quello che diciamo come organizzazione aziendale, come posto di lavoro. Sì. Allora, questo avviene anche nelle aziende, ci sono tante ricerche sul fatto che gli elementi, cioè, siccome la comunicazione è fatta di tante cose, no? Cioè di parole, ma anche appunto ad esempio del tempo, le donne ne so, nel rispondere tendenzialmente prendono più tempo per formulare le risposte. Sì, e questo è qualcosa che penalizza, no? Perché ci sono tutte anche delle allora, intanto perché, vabbè, a parte, cioè, tolgo Federica che è abituata a parlare in pubblico, ma tendenzialmente le donne non hanno uno spazio pubblico, cioè non sono abituate a parlare in pubblico, anche questo è un tema grossissimo. Le donne in politica fanno fatica perché non hanno, come se non avessero una scuola per parlare in pubblico, e quando parlano in pubblico spesso devono urlare, e questa cosa poi non funziona. O fai la cosa contraria, tipo la nostra presidente del consiglio che urlava tanto e poi le hanno detto: va bene, adesso sei diventata presidente del consiglio, devi smetterla di urlare, e ha rifatto tutto. Cioè, lei è incredibile da questo punto di vista, perché ha fatto proprio un cambio. E questo è vero, questo c'è. Una maniera straordinaria. Su questo, il soprattutto la trasformazione. Sì, sì, beh, ad esempio a me è capitato un ragazzo di Indomiti, anche loro hanno fatto una delle interviste, che era arrabbiatissimo con me, ha detto: ma a me, guarda, mi puoi chiamare storpio, monco, handicappato, me ne frega niente. A me quello che interesserebbe è avere un sistema quando esco con i miei amici per poter pagare la mia pizza senza avere bisogno di altri, perché lui non ha le mani, mancano tutte e due le mani, e quindi non può come dire, utilizzare i sistemi di pagamento, no? Poi lui diceva: quella per me è la comunicazione accessibile, fammi quella cosa lì. Quindi quando si parla di comunicazione sono tante cose, no? Sono tanti aspetti. Ne dico ad esempio un'altra. Questa è una ricerca che è stata fatta da mio marito, comunque dall'Università di Modena e Reggio Emilia, praticamente parla di quello che si aspettano gli studenti, i laureati dal futuro lavorativo e anche dalla città in cui vanno. E sono state fatte 1000 interviste e le prime 3 risposte sono che cosa si aspettano i giovani laureati nella città in cui vorrebbero lavorare, in cui troveranno lavoro. Da 1 a 7 il primo elemento è che è ben collegata con mezzi pubblici. Il secondo elemento è che abbia alloggi accessibili per costi e disponibilità. La terza, che sia aperta alla diversità e all'inclusione. In questa terza c'era il fatto che, e io lo vedo a Reggio, che se tu sei in una città dove i muri sono con scritte, con testi violenti, sono i muri dove ci sono, non so, l'opera che era stata fatta alla stazione, no? Contro la violenza sulle donne, è stata completamente distrutta. Quella non è una città inclusiva, quella è una città che ha un linguaggio violento, e se io ho questo linguaggio sui muri e lo vedo tutti i giorni, non sono una città che ha accessibile, una città che accoglie, una città. Quindi sono tanti gli aspetti della comunicazione. A me questa cosa mi colpisce, perché le nostre città sono delle città che sono politicamente violente per il linguaggio che ospitano sui muri. E questo è una cosa che se iniziate ad andare in giro lo si vede, no? Quindi ecco giusto quelle opere di pulizia, no? Che sono state fatte anche, cos'era, in via Lomberto, era stato fatto una... Perché tutto quello contribuisce ad aumentare il linguaggio violento. Grazie ancora. E secondo me questo nelle aziende lo si vede anche molto quando si lavora nelle aziende, comunque a livello di sindacato, per esempio un dato provvisorio, perché siamo appena partiti, ma che già abbiamo con la ricerca che stiamo facendo adesso sul lavoro giovane under 35, e che il 90% delle risposte sono donne, il che significa che evidentemente sentono di più il bisogno di esprimersi sul lavoro, e secondo me per 2 ragioni principalmente. La prima è che hanno tanto da dire, da migliorare; la seconda è che trovano uno spazio in cui farlo, ed emerge anche quando ci si parla poi con le lavoratrici, che è una delle cose che noi chiediamo, che io chiedo, è: parlami di abusi subiti sul lavoro, abusi in senso lato, no, qualunque, sopruso, ecco, no? E me ne tirano giù tantissimi, e dico: cosa hai fatto? Niente. Non ho, cosa hai risposto? Avrei voluto rispondere questo, e mi elaborano cose molto circostanziate che includono argomenti morali del diritto, dei diritti dei lavoratori e lavoratrici, cioè. E Brode non ha detto niente, perché? Perché è il capo. E magari per un uomo era più facile formulare un molto meno, magari circostanziato, vaffanculo, però glielo diceva e magari rimetteva, magari no, perché poi non è che sempre si risolve con quello. Però è vera questa cosa che ci si pone in una certa maniera e sul posto di lavoro, e è un altro aspetto che poi però invece quando gli vai a chiedere ma tu hai subito discriminazioni e di genere, e ti dicono no, non ne ho mai subite, però poi ti dicono tutto questo qua e io non ho mai risposto. E forse a volte, secondo me, manca a volte proprio collegare come la comunicazione o l'incapacità di comunicare, essere inclusi in una comunicazione che mi dicono perché ci sono tutti i capi, io non ho il coraggio di andare lì a parlare perché decidono tutto loro, no? E questo mi è capitato di vederlo anche per esempio fra uomini che magari sì, sono uomini, ma non hanno un modo di fare, come diceva prima Fede, che interrompono, che vanno, non hanno quell'aggressività anche che è quello che ci si aspetta uno tiri fuori, no? E sono d'accordo che sia terribile, ma ci si aspetta che sia così, il tirar fuori anche gli uomini. Poi dopo vedi questa cosa qua, che la comunità, la comunicazione non gli permette di partecipare, e di fatto diventa poi una discriminazione anche senza riuscire magari a percepirla come tale. Magari anche quella è una questione di lettura, no, in un certo senso. Non so se volevi rispondere o se ci sono altre domande, commenti. No. Poi avevo i pidocchi, mi danno le zone, mi dicono, guarda, lavate tutto, me lo danno, mi dicono, porta a casa così la mamma per guardare, io gli ho fatto per me, io dicevo, no. E io dico, no, tu puoi anche qua, ma come c'è? Ed è un asilo, sono cose di bilancio. Qui, insomma, io sono sempre molto cauto quando ho parlato di persone che dicono no, bisogna far così, bisogna fare da qua, bisogna... perché la quotidianità è cosa, hai delle sovrastrutture in cui ti conoscerà, insomma, quindi insomma, sono contento di aver sentato la tua bambina sul Sosa, vivo io quest'estate, ed è importante. Diversità, inclusione, no, perché dopo dovevi usare decolonizzare e ti avrebbero, non ti conviene, Reggio Emilia. tre. Io ho fatto l'errore di dire al capo di personale che lei mi dice, ma è una bella, non è così, ve l'ho detto, ma le parti di San Maurizio sono sempre Vabbè. Infatti loro non hanno risposto sulle sarde, perché così, perché il silenzio porta che le persone si dimenticano. Quindi. Sì, è un lavoro culturale, ma innanzitutto culturale su noi stessi, anche perché io e Davide, che abbiamo fatto liceo insieme, liceo classico, che è una cosa che allora, adesso spero che sia cambiato, perché, ma allora era una prova di forza. Io mi ricordo di una nostra compagna che osò venire a scuola con una gonna più corta del ginocchio, cioè sopra il ginocchio, e che venne tenuta in piedi davanti a tutta la classe perché era indecente come era vestita. E un altro nostro compagno che venne a scuola con una t-shirt con sopra un personaggio, adesso non mi ricordo neanche chi fosse, era Nicola, che in quel caso gli disse una frase del tipo: tu vieni a scuola così, con tutti i sacrifici che fa tuo papà per farti studiare. Che poi non è che ho fatto il liceo nell'Ottocento, perché insomma non lo so. No, però veniamo da un contesto dove certe cose, cioè, e quindi abbiamo fatto, come dire, voli. Beh, speriamo che non sia più così, perché era veramente impegnativa. Ma infatti tanto normale, io non ho avuto un'adolescenza serena, per cui vabbè, poi c'è chi più e chi meno, ma insomma vabbè. E quindi siamo un po', cioè sappiamo come muoverci. Insomma, no, comunque sì, è un lavoro continuo. Quello che io provo a fare quando vado nelle aziende è quello in generale di far scrivere le storie insieme, perché il linguaggio, al di là delle parole o di come finiscono le parole, gli aggettivi, è sempre una questione di storie, e se tu le storie le fai raccontare insieme è molto più semplice trovare quegli elementi in comune piuttosto che di divisione, che poi è un po' quello che succede anche con i migranti. Se tu passi dalle storie c'è una ci può essere un'immedesimazione, quindi e su quello, come dire, c'è il cambiamento, secondo me, perché c'è cambiamento, cioè si spera che ci sia. E a proposito di storie, per chi magari non lo sa, il giovedì prossimo non so come si chiama, all'ex mafia, alla sede del Cores, sì, quello lì, vabbè, avete capito tutti, siete stati tutti al mafia, ci sarà Cesare Tofani, che è il più anziano capitano dell'ultima missione della penultima missione della flottiglia, e che ci racconterà appunto quello che è successo. Quindi insomma, se avete voglia di venire, vi aspettiamo, e anche lì è una bella storia.